L'operazione è nata attraverso la prima delle suboperazioni, quella relativa al traffico delle fan car. Attraverso la scoperta di movimentazione su un conto corrente bancario apparentemente riferibile a un soggetto privo di sostanza di somme enormi di denaro, questa circostanza ha attivato le indagini del nucleo di polizia valutaria che da queste indicazioni e poi piano piano risalite ai motivi di questo traffico sul conto corrente bancario e quindi all'operazione FanCard. Dall'operazione FanCard poi ci si è inoltrati, perché il meccanismo era lo stesso e anche alcune delle società utilizzate erano le stesse, nell'operazione di traffico telefonico. Operazioni apparentemente reali, cioè nel senso che esistevano delle società che facevano finta di stipulare dei contratti che giustificavano il giro del denaro. Questa operazione a un certo punto si è intersecata con un'altra operazione che riguardava le dichiarazioni di un soggetto, un imprenditore ritenuto di essere usurato e che ha dato indicazioni perché, come corrispettivo di alcuni aiuti che aveva ricevuto da personaggi della criminalità, ha messo a disposizione il proprio conto corrente bancario per poter, diciamo, far transitare sul proprio conto corrente bancario una tangente a un ufficiale della Guardia di Finanza. Questo seconda tranche ha dato vita a una indagine che, partendo da questi soggetti, dalle motivazioni di questi trasferimenti di denaro, perché questa tangente aveva avuto origine da un trasferimento di denaro da Panama via Austria, attraverso lo studio dei conti austriaci e panamensi della broker riferibile a un certo Augusto Murri, un finanziere, un personaggio che godeva di un certo accredito sul piano internazionale, attraverso l'esame di questi flussi finanziari si è venuto a comprendere come questi flussi finanziari null'altro era che il riferimento di quei contratti di falso traffico telefonico della prima indagine. A questo punto le due indagini sono state riunite e è stato evidente come queste indagini abbiano portato alla luce che i settori finanziari della Fastweb e della Telecom Italia Sparkle erano coinvolti, perché naturalmente erano i settori dai quali usciva apparentemente questo denaro per pagare operazioni inesistenti, denaro che rientrava alla fine del giro della frode carosello, identico, soltanto depurato dall'IVA. L'IVA di ogni operazione veniva poi collocata all'estero e spariva appunto all'estero ed è stato il frutto di questa operazione criminale, ecco, illecita.